Gesù, i miei passi mi hanno portato lontano da te. La mia anima si è seccata nel deserto dentro di me. Ascoltami, mio Gesù, amor della mia vita, luce della mia esistenza, non posso vivere senza te. Il mio primo amor, ti adorerò per sempre, voglio ser legato a te, portami ora nel luogo santo, Gesù, dove conobbi te. Chiediamo perdono, Padre, per le nazioni di questa terra. Signore, ti abbiamo deluso, ti abbiamo dimenticato e ti abbiamo lasciato per seguire i nostri propri cammini. Oh Signore, abbi pietà di noi oggi. Alziamo un clamore a te e ti diciamo, Padre, perdonaci. Sana la nostra terra, sana le nazioni della terra. E che il tuo nome sia proclamato e annunciato, e che la pace sia nel cuore di tutti quelli che ti amano. Amen. Qualcuno può dire amen? Il mio primo amor, ti adorerò per sempre, voglio ser legato. luce della mia vita.